Non è fatto un cazzo, è fino a un anno che per mezzo un grammo ti facciamo con quello. Nemmeno un spinello, guarda che lo